Bene, tornati dopo il set di DJ Tetro che ci ha fatto calare dentro gli anni 80, ma anche gli anni 80 traslati, quelli ripresi come atmosfere. Qualcuno avrà riconosciuto sicuramente un John Carpenter remixato, e nel frattempo tra l'altro è arrivato proprio su John Carpenter, quindi inquietante, sì. Jerry, sono un po' in ritardo, però ce l'ho fatta anch'io a partecipare a questa bella iniziativa, grazie anche all'idea. Poi è stata, diciamolo, è stata un'idea di DJ Tetro questa, per cui lo riconosciamo. Bene, anche perché ne io non parlato dall'ultima mi ricordo volta. Pochissime purtroppo di queste cose qui. Diciamo forse che le seguivo un po' meno di te. Sì, probabilmente avevamo due linee un po' diverse. Io sono quindi sempre stato un po' più dark, infatti ho portato roba un po' più oscura. No, ma c'è anche quella componente, c'è anche la parte più gotica oscura, l'abbiamo per adesso trascurata, adesso ci arriveremo. E sì, nelle ore più oscure, parte, giustamente. Man mano che viene più notte. Cosa abbiamo sentito mixato, Tetro? È stata una mescola un po' di vari periodi. Comunque la partenza appunto è stata Hiroshima di Snowy Red. Poi c'è stato The Form, sì, un gruppo francese, questo era un brano degli anni 90. Poi dopo c'è stata Gina X, No GDM, remixata da DJ L in quel caso, quindi era un remix più moderno. Poi un'altra manipolazione di Rita Mitsuko, poi John Carpenter, poi un gruppo contemporaneo, i Tristesse Contemporain, che sono un gruppo stranissimo perché sono una giapponese, una barzelletta, una giapponese, uno svedese, un inglese che si trovano a Parigi e fanno un gruppo. Vabbè. Poi Crash Course in Science, invece un gruppo americano della fine degli anni 70 che faceva già musica molto, molto strana, già con strumenti rielaborati alla Der Plan Pyrolator, come abbiamo detto prima. Poi dopo Matthew Dear, invece un produttore recente, di nuovo recente, molto bravo secondo me su quel tipo di suono. E poi dopo siamo ripartiti da Fat Gadget, che forse della parte Mute è una delle cose di synthwave più belle in assoluto, che aveva poi prodotto la Mute, che forse l'etichetta che negli anni 70 è stata un simbolo per quel tipo di suono. E abbiamo finito con il suono belga, forse il brano simbolo, che sono è lo Sninios nel Park di Asian Dangerous. Stupendo, tra l'altro disco dove veramente hanno attinto anche molta acid, ma di tutto, credo che l'abbiano suonato credo che sia finito in tutte le diagonali della dance music, cioè da chi ha fatto techno, chi ha fatto, cioè forse anche la house stessa, lo suonavano al Chuck, quindi non addirittura, quindi lo suonavano anche nelle discoteche, insomma, assolutamente, è stato un brano che ha suonato anche, vabbè, al Chuck c'era Mickey, che poi alla fine era commerciale fino a un certo punto, secondo me era molto bravo, perché riusciva proprio a far ballare la gente, anche roba che forse in altri luoghi non avrebbe mai ballato, ecco, è stato il più bravo di tutti in quel senso. E qua casca un po' l'asino, perché all'epoca si riusciva anche a mettere magari della roba, cioè sfondava anche la underground e arrivava addirittura nelle discoteche, perché poi c'erano persone molto in gamba a mettere i dischi, quindi si riusciva anche questa operazione, quelli molto bravi riuscivano a fare proprio questo tipo di operazione, di utilizzare brani che forse in altri luoghi, in altri modi non sarebbero riusciti. Bene, riniziamo quindi con un progetto che è veramente ultra sconosciuto. Sì, sì, dove l'hai trovato questo? Questa è una ristampa, perché gli originali sono totalmente impossibili da recuperare. È un disco di questo personaggio austriaco che si faceva chiamare Monoton, che direi, o Monoton, dipende dall'accento. Un nome, un programma. Un nome, un programma. Quindi un disco molto, molto rarefatto, suoni veramente sintetici, molto, molto bello però. Ce l'andiamo a ascoltare. Thank you. Bene, siamo passati dagli anni 80 al 2013, diretti. Diretti, ma direi che non è successo niente. No. Ci siamo. Questo è una cosa che è appena uscita di Andrea Stillander, che è questo svedese pazzo che suona sotto 10.000 pseudonimi, e qui ha fatto questo disco che si chiama TM404. E usa solo dei Roland, appunto, degli anni 80, e i brani di questo disco si chiamano tutti con i numeri dei Roland che ha usato. Utilizzati, sì. Questo, per esempio, si chiama 303, 303, 303, 303, 606. 606, perché a un certo punto ha cambiato. Grazie 303, dove è nata. È un drone incredibile di 5-6 minuti, proprio ci sta benissimo. Fantastico. Dopo monotone, rimaniamo monotoni. Thank you. Beh, siamo tornati con... Siamo tornati di nuovo indietro. Qui si fa il ping pong, direi. Si fa il ping pong e siamo andati alla base di quella che è stata l'etichetta industrial per eccellenza. Ma la base anche, sì, è la base di tante cose. Sì, probabilmente qualcuno li ha definiti e secondo me finalmente dopo... più di 30 anni insomma dall'uscita dei dischi storici e la progenie forse di tutte le elettroniche, perché se andiamo a pensare anche l'ambient addirittura, beh, quello c'è Ino, però un certo tipo di ambient più ammalata, quella più malata sicuramente la ilbient, la ilbient, la ilbient, abbiamo sentito Robin Grist, storico disco 20 Jazz Funk Greats. Disco poi tra l'altro l'unico appetibile in termini commerciali. Sì, diciamo l'unico ascoltabile forse. Gli altri erano abbastanza ostici. Però lì c'era veramente tanta roba. Cioè, un disco dove c'era oggettivamente una montagna di idee che poi nel tempo si sono sviluppate in tante direzioni. Poi tra l'altro da non musicisti, da performer praticamente nascono totali. Nascono come performer, nascono quindi. Come Coum loro negli anni 70 operano. Coum Transmission, cioè, sì. Sì esatto, sono poi cose che fanno tutti e Genesis che operano lì, sì. Fra l'altro considerati molto più pericolosi dei Pistols dalla stampa inglese, quindi più oltraggiosi, molto più, tra virgolette, considerati veramente dei criminali. Oggettivamente erano abbastanza estremi nelle loro come performance. D'altronde tutto il discorso dell'industria, la tattica shock, no? Anche tutto questo recupero di quello irrecuperabile, no? Tutte queste immagini di torture, oppure le più violente, le più dure possibili, legate addirittura a cose anche molto contraddittorie come il nazismo. Beh, c'è stato infatti anche lì un po' di confusione anche dal punto di vista proprio dell'estetica, secondo me, che era... anche se molti poi hanno chiarito, in primis Cabaret Voltaire, quando lo utilizziamo per far vedere quello che la società capitalista ha generato, perché insomma non è scindibile, cioè c'era un riferimento ben preciso, non era un atteggiamento nazi, se vogliamo essere, era il suo esatto opposto, molto situazionismo, quindi c'era l'ispirazione tutto quel, anche al teatro degli anni 70, il Living Theater e tutte le parti loro vengono dalla body art, quindi, e musicalmente insomma hanno creato sicuramente uno stile, non c'è dubbio. Industrial Record poi ha prodotto tanta roba bella, cioè, gente anche poi inciso per Mute, tipo Boyd Rice, tanta roba molto molto bella, non sicuramente commerciale. Però la forza di Daniel Miller è stata quella, di fare Depeche Mode da una parte e dall'altra dare anche la possibilità di pubblicare dischi che assolutamente non erano certo rivolti ai grandi numeri. Una specie di coppola della musica, sì. Fin commerciale per poi poter fare anche altre sperimentali. E ancora oggi è ancora lì che opera. Bel paragone. Sarebbe contento magari Daniel Miller. Daniel Miller sì. Beh, addirittura anche con c'erano anche punte piuttosto radicali, appunto come Bud Rise, però d'altra parte anche ad esempio i Erasure, no? Che erano sì, ex Depeche Mode, cioè Vince Clark dopo che esce dai Depeche, proprio molto tecno pop, no? Purissimo. Nella prima compilation ci sono anche Soft Cell, nella prima compilation che era un miscuglio tra sperimentazione pop, che infatti poi vanno a incidere Sam Bizarre, che poi dopo Mark Almond collaborerà con Psychic TV e con tanti altri progetti. Sì. Anche il disco di Dave Ball è molto, ci starebbe anche bene tra l'altro questa sera, prima di Dave Ball, no? Sì, Dave Ball in Strict Tempo, un disco bellissimo, anche con collaborazione Jazz Piori, esatto. Lì c'erano comunque trovati e cioè non c'era tanto la scissione tra musica che veniva considerata di commerciale e quella sperimentale, no? No, anzi, se pensiamo alla carriera di Human League e ABC, io sugli ABC veramente sono sempre stato sconvolto. In pochi mesi cambiare da Viceversa a ABC e fare comunque forse un disco pop perfetto, fra parenti, perché Look of Love non c'entra niente stasera, ma è una plastica meravigliosa, una plastica incredibile. Sì. Andiamo a ascoltare un'altra piccola porzione per dare una sorta di omaggio alla musica industriale che ha formato poi insomma che nasce da questa da sì. questa parte, cioè la synthwave deriva in varie direzioni, una di queste è l'industrial. Mm. E sicuramente, insomma, da citare non tra i maggiori, ma tra i minori geniali, tecnoidi spaventosi sin dalla fine degli anni 70, primi anni 80, tra l'altro spagnoli. Sì. E splendor geometrico con riferimento anche ai futuristi italiani, con Moscou e sta Elado, pezzo prototecno eccezionale. Краснознамённого имени Александрова ансамбля песни пляски советской армии. Борис Александров, на слова Сергея Островова. Песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada, la muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Il splendor geometrico ci cantavano Moscú está helado. Inventori veramente di una techno da malati criminali. Sì, sì. Molto, molto originale, perché riprende appunto quella roba lì, un po' maccheronica, un po' così improvvisata. Sai. Era un modo di suonare molto, molto diffuso, così, infatti, abbastanza povero. Sì, beh, nasceva veramente nelle casette. Prima dell'house c'era questo approccio, no? Beh, l'house minimale, stessa quello lì, prende, no? Molti spunti. La tecnica in assoluto poi non nega questa influenza della parte elettronica di quegli anni, anzi. Sì, e poi tra l'altro l'accennavamo prima, Jerry, quando tu non c'eri, La cosa particolare è che molte formazioni, molte progettualità stanno tornando all'analogico, proprio perché c'è una grande c'è questo suono proprio che è eccezionale, molto emotivo, da una corda differente. L'abbiamo visto anche prima con Till Lander, che ovviamente ha usato solo Roland, per cui... No, ma era una cosa molto... c'erano solo quelle, quindi non è che si potesse far tanto. Però c'era la rabbia del punk. Però c'era dentro una spinta emotiva molto molto forte, quindi si sentiva. Beh, direi che possiamo andare all'origine di tutto. Una delle origini di tutto, una sicuramente. Di queste, l'abbiamo appena citato, Daniel Miller, il primo singolo della Mute. Se lo fece da solo e si chiamava Warm Leather. È una sorta di mecca per chi ascolta l'elettronica, questo, cioè prima o poi ci dovete passare da Warm questo Leather. Sì, non si può non conoscere Warm Leather. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm Leatherette. On warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Join the car crash set. Beh, meraviglia. Quasi agghiacciante. Anche il testo. Sì, anche il testo. E qua è veramente cold, ma sul serio cold. Malgrado il warm del titolo. Ma peraltro si parlava di materiale ballardiano, no? Un incidente automobilistico, no? Di un tunnel, no? C'è anche varie metafore, insomma, che possono ricordare anche poi quel periodo storico, no? Guerra fredda, sì, c'era tutto proprio la questo. Minaccia nucleare, la crisi petrolifera, no? C'era tutto, quello che c'è anche adesso. Sì, solo che vabbè, non manca qualcosa però di questo, che però tra poco sta salendo, quella cosettina. Vabbè, comunque, sano, come dire, terrorismo musicale, sì. Ecco, sonoro. Poi soprattutto il primo singolo di un'etichetta, quindi una cosa, cioè il proprietario dell'etichetta che si fa il singolo. Doveva, tra l'altro, aveva formato la Mute proprio per stampare la roba sua, no? Poi proprio diventa, e da lì poi automaticamente mette in moto. Ha retto fino a pochissimo tempo fa, ancora. È qui che circola ancora. Sì, sì, con la techno, sì. Anche piuttosto. Ma se non ricordo male, il disco che è uscito, adesso non vorrei dire, il disco che hanno fatto Vincent Clarke e Martin Gore, sì, si è trovato molto interessante. Che è una sorta di proto techno, sì, credo sia Mute, perché loro comunque rimangono legati alla Mute. Sì, tra l'altro, vabbè, non ha più l'impatto di una volta, mi sa che è in comproprietà. Probabilmente avrà major, venduto a qualche major le parti, però dal punto di vista credo creativo abbia ancora comunque libertà di azione. Quindi ancora tanto di cappello Daniel Miller, che regge veramente alla grande. Sì. E tra l'altro ha dato anche spazio, insomma, in termini ideativi alla scena di Brooklyn. Esatto, che adesso andiamo a citare con un brano di Marcial Canterel, che è questo personaggio che opera per la Weird Records, che è questa etichetta che ha praticamente ricominciato a seguire e a spingere questo suono, chiamiamolo, con progetti vari che sono transitati tutti dentro l'etichetta. Lui, fra l'altro, come Xino Klander, ha un side project, più altri gruppi che fanno capo a questo tipo di etichetta newyorkese, che ha anche ristampato poi tantissime cose di synthwave con due compilation molto belle, che si chiama proprio Minimal Synthwave. Esatto, proprio il titolo completo è Cold Wave and Minimal Synthetics, credo. È un disco nero molto minimale, dove ha messo dentro un po' di tutto, c'è anche del synth pop abbastanza terribile. Sì, nel recupero. Nel recupero poi purtroppo si vanno anche a recuperare cose che magari si rilasciavano dentro al secchio, era meglio. Però diciamo che l'operazione è stata molto bella e ha permesso anche a tanti gruppi nuovi di riprendere e prendere ispirazione da questo tipo di suono. Questo è Marcial Canterel nel 2005, quando più o meno prende piede un po' tutto il progetto. Ce l'andiamo ad ascoltare. Avoiding all the traps without tattered maps. Bene, tornati dopo il bel progetto della, è di Brooklyn lui, Brooklyn. Non è un emigrato, insomma, non è un immigrato. Williamsburg, parliamo. Ok, quindi piena Brooklyn, dove tra l'altro insomma anche altri per certi versi si rifanno un'estetica cold, magari sì, non ritmica, se pensiamo insomma all'Opatin, sì, Neotrix, che appunto hanno questa estetica nera, noir, sì, no? Infatti, dark. Ci sono, non è un caso che Clinic, il nuovo, sia appena stato completamente remixato dall'Opatin. Mm. E adesso invece andiamo a trovare, io non ne so niente di storici, non perché voglio fare il giovane, ma perché sono un pizzichino più piccolo di loro, non sanno niente dei Victrola, si ritrovano in qualche compilation appunto di queste qua che stanno, sì, uscendo negli ultimi periodi, Antonio Cuscinà, Carlo Smeriglio e Tobia. Il cane di Mortimer. Forse ecco l'Electric Eye Record, cos'era, di Torino forse, e stampava più che altro cose neopsichedeliche, no, se non sbaglio. L'Electric Eye si era legata a Claudio Sorge, sì, può essere, eh? Eccolo, sì, appunto, a Claudio, esatto, Sorge, che io non lo sapevo, un più rockettaro, addirittura Starfuckers, brodo di cagna strategico, viene stampato da i Deform italiani. Beh, quindi hanno iniziato con i Pankow. Sì, quindi hanno iniziato con sono partiti anche con la colda. Beh, tra l'altro Pankow questa sera, comunque forse su Windust. Li tiriamo fuori. Per ora ci andiamo a ascoltare Victrola, questa cosa misconosciuta, molto molto bella. With the whole of your peace below, it fades like a mango. It hits in like a fisherman. Here lives the life of the lonely people. Thank you. lives in the colors of the dead. He wants not to walk alone. He takes the lid about with the dragon's tail, while it's his smiling laser. He blocked the eastern ocean. Now the world's a friends to him. Reach the mainland. Please stay still on the shore. Watch the waves from the right side. Please stay away. Allora, abbiamo un minuto circa prima del GR, poi riprendiamo con la terza parte di questa Minimal Synthwave. E questi sono i Clinic Remix, nel disco di remix fatto da, visto che l'abbiamo citato prima, One Tricks Point Ever. Ok, allora, a dopo il GR. You're